quindi figurati, ero biondissima. E poi sai, quando cominci a invecchiare dispiace di più che ti casca il collo, quello sì che dispiace. A un certo punto ho smesso, perché da giovane dicevo sempre: ah, voglio diventare una bella vecchia, e invece stavo diventando una vecchia ritinta. A un certo punto ero curiosa del mio vero colore, allora dico al parrucchiere: senta, ma se li lascio crescere selvaggi, come vengono? E lui: come la pelliccia di un cane vecchio, a chiazze. Veramente ha detto anche peggio di, per dissuadermi, eh? Però io ero stufa di quel rito degradante. 4 ore. Mi metteva una cuffia medievale coi buchi, oppure come un bignè, mi attorceva tutta di stagnola, una cosa bruttissima. Dopo esci, che sei brutta come prima, e in più c'è quel qualcosa di presuntuoso che ti imbruttisce il doppio. Ora sai, è come per le plastiche, non è che accetti i capelli bianchi perché sei diventata saggia e rinunci alla vanità, ma per carità, la vanità non se ne va mai, nasce e muore con l'uomo, cambia di segno. Mia nonna Santina, comunque, una bigotta senza pari, che spesso ricordo nelle mie preghiere qui al faro quando racconto i fatti suoi e del suo commercio con il diavolo, si è tinta fino alla morte col nocino per piacere al parroco. Cara Barbara, ho 59 anni, professoressa in pensione. Sarei sola, ma per fortuna ho molti amici fra i miei ex allievi e allievi che mi trattano come una grande mamma. Ultimamente hanno cominciato a farmi dei discorsi strani, che sono ancora giovanile, che dovrei cercarmi un compagno o almeno un po' di compagnia. Non ci penso nemmeno. Sto scrivendo le mie memorie e sarò pure una patetica pensionata di provincia, ma come scrive Antonio Pennacchi all'inizio del suo meraviglioso romanzo Canale Mussolini, credo di essere nata per scrivere questo libro. Invece loro insistono. La sera del mio compleanno ne aspetto 2 a cena e invece di loro bussa un giovanotto sconosciuto. Insomma, mi avevano mandato un escort. Si dice così anche al maschile? Insomma, uno gigolò, come si diceva ai miei tempi. Mi sono messa a ridere, gli ho offerto un bicchiere e ho detto che, senza offesa, ne facevo a meno. Lui se n'è andato un po' mogio. A parte l'affettuoso cattivo gusto dei miei allievi, che mi fa dubitare della bontà dei miei insegnamenti, dopo mi è dispiaciuto di non avere almeno un po' parlato con lui. Ho inserito l'episodio nelle memorie, ma vorrei sapere qualcosa di più su questo fenomeno. In seguito ho saputo che 2 mie amiche coetanee sono clienti abituali. Nancy. Beh, parecchio indiscreti i tuoi allievi, effettivamente. Parecchio indiscreti, però vedi, evidentemente gli insegnamenti che tu hai dato cozzano con l'influenza del mondo circostante. C'è questa cultura delle escort e via dicendo, per cui evidentemente sono dei mutanti questi tuoi allievi. Hanno una spolverata classica e poi sono posseduti dai miti moderni. Immagino questo poverino che sarà rimasto un pizzico vedendo questa signora che non aveva bisogno della sua prestazione, della sua arte. Comunque ho delle testimonianze di professionisti, le puoi anche inserire nelle tue memorie perché sono anonime e non c'è copyright. E poi per simpatia aggiungo anche la lettera di una signora, anche lei cliente abituale. Allora, c'è un giovane prostituto che scrive così: ho una cliente anziana che mi paga come per una seduta normale, solo per andare al ristorante e farsi vedere con me. Io sono una persona per bene, ho sempre lavorato. Mi sembrava di rubare il pane. Così una sera ho insistito per darle un saggio del mio mestiere e lei: grazie caro, apprezzo la tua onestà, ma non ho più un corpo per l'amore. Che vuoi dire? Come non ce l'ho più per lo sci? Sono fragile. Se vengo con te mi rompo. Oh, questo è un altro. La mia tariffa è alta perché so cosa offro, ma alle vecchie metto il doppio perché le odio. Che vadano a dire il rosario, ma non si vergognano. E però poi può capitare anche che a volte si creino dei rapporti duraturi e sinceri, perché i soldi non sempre escludono il rapporto affettivo, a volte lo favoriscono. Ed ecco una testimonianza in questo senso. Ho avuto una cliente molto timida, che per timidezza strapagava. I suoi compensi alzavano il livello delle mie prestazioni, come sempre l'artista quando si sente capito. Coi suoi soldi mi ci sono sposato, mi ha fatto la dote. Ora è così vecchia che non pensa più a queste cose. Ogni tanto la vado a trovare come una parente. È proprio una simpatica persona. Quindi insomma questa cliente si è trasformata in una mammina buona. E poi invece c'è appunto una cliente che parla. Per mio marito o moglie vuole dire quella con cui non si fa più l'amore. Dopo qualche anno, con la scusa che non eravamo più giovani, ha diviso i letti. Noti bene, avevamo 40 anni. Però andava a letto con le puttane. Io lo invidiavo. Loro sono desiderate e anche le pagano per questo. I soldi manifestano concretamente il tuo valore. Che sicurezza devono avere queste donne?